Siciliano, quando gli si avvicinano per chiedergli chi sia, lui risponde sommessamente: sono qui in qualità di parente. Il parente del potente, il parente del potente, il parente del potente, hai il contratto assicurato sin da quando è appena nato e forse non ha messo ancora il primo dente. Il parente, il parente, non lo poteva dire prima. Il parente, il parente. Non poteva dire prima.